Salva Danaio con Simone Spezia. Le 12 e 16 minuti, buona giornata gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Salva Danaio. Come già vi dicevamo all'interno del nostro giornale radio, è di mercato che parleremo oggi e cercheremo di capire un pochino come gestire il proprio portafoglio in questa fase. I mercati in questo periodo stanno andando bene, ve lo abbiamo raccontato ampiamente ieri, ve lo dicevamo anche nel giornale radio, i 12.000 punti superati dal Dow Jones, livello che non si vedeva dall'agosto del 2008, e siamo pre Chapter 11 per Lehman Brothers sostanzialmente, quindi insomma dovrebbe essere un segnale positivo, ma i dubbi sull'andamento in generale dell'economia ci sono ancora e ci sono altri dubbi che riguardano naturalmente il futuro per quanto riguarda i tassi di interesse e ancora dove andare, rivolgersi ai singoli settori, guardare ai singoli paesi, magari ai mercati emergenti ancora una volta o ancora una volta alle materie prime. Lo abbiamo detto molto spesso, è il 2010 che è stato il loro anno. Saluto Lorenzo Alfieri, Managing Director di JP Morgan Asset Management. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E buongiorno a Giorgio Giovannini, Country Manager per l'Italia di Henderson Global Investors. Buongiorno a lei. Buongiorno e grazie per l'invito. Naturalmente l'800 24 00 24 è il numero per intervenire in diretta. Se avete domande più brevi potete farcele al 349-238-6666, che è il nostro numero di SMS. Giornata di mercato positiva, come si diceva, gli indici si stanno rafforzando, così come l'andamento dei singoli titoli. In luce oggi tutto il settore bancario, ed è questo naturalmente, come sempre, a trainare la borsa milanese, che in effetti è la seconda migliore dopo Londra. Londra guadagna lo 0,95 e Milano lo 0,80, mentre invece siamo su rialzi frazionali per quanto riguarda Parigi e Francoforte. Più 5,43% il Banco Popolare, più 3,17 Unicredit, Intesa più 2,6, UbiBanca più 2,45, Mediobanca più 2,3, la Popolare di Milano più 2%. Questo il quadro, mentre in negativo troviamo Fiat naturalmente, che risente i dati sulle immatricolazioni di ieri, meno 1,18%, Fiat SPA, quella che fa riferimento al settore auto, ed Exor che cede l'1,91%, mentre è positiva Fiat Industrial che guadagna l'1,20%, più 1,15% per Generali, che oggi attende un CDA che dovrebbe nominare il direttore generale. Euro che quota 1,38,41 contro dollaro. Iniziamo a fare il punto sulla situazione con la nostra scheda. Il 2010 è stato l'anno in cui l'Europa si è scoperta più debole. Le tensioni sul debito di diversi stati sovrani e la conseguente volatilità sui mercati valutari hanno in parte guidato le scelte di grandi e piccoli investitori. Chi si è concentrato sulla borsa, italiana in particolare, è rimasto deluso, considerato che Piazza Affari l'anno scorso è stata la peggiore, con un calo da inizio anno pari al 12%. Tuttavia, i primi segnali per il 2011 per il listino milanese sembrano essere positivi. A gennaio, infatti, il FTSE MIB ha recuperato gran parte delle perdite, archiviando il mese con un rialzo superiore all'8%. Ma come sarà il 2011? La speranza è naturalmente quella che la congiuntura possa consolidarsi un po'. Vista la debolezza dei debiti sovrani, le azioni potrebbero andare meglio dei bond. In Europa ci si aspetta una crescita modesta, ma anche l'attuazione delle annunciate politiche restrittive, per non dire lacrime e sangue, in molti paesi. A risparmiatori e investitori non resta che mettersi in cerca dei primi segnali e ipotizzare le strategie giuste e le mosse più sicure. Questo in breve il quadro della situazione. Allora, inizierei da Lorenzo Alfieri, lo dicevamo, Managing Director di JP Morgan Asset Management, per chiedergli in generale un punto della situazione, che cosa si attende per i prossimi mesi, insomma, perché qua corriamo sempre il solito rischio, no? Che gli investitori, i risparmiatori vedono questo mercato che va bene, ci si buttano dentro e poi esattamente quando ci si buttano dentro il mercato inizia ad andare male. Allora, partiamo proprio dall'azionario, Alfieri. Beh, sicuramente in questo momento l'azionario sta incorporando delle aspettative di crescita in questo primo trimestre, soprattutto in alcune aree come gli Stati Uniti. Non ci dimentichiamo che è stato appena rivisto a rialzo proprio l'andamento dell'economia americana per la prima parte dell'anno, della buona crescita in Germania e ovviamente la continua crescita dei paesi asiatici ed emergenti in generale. Però, come correttamente è stato evidenziato, il 2010 già aveva inanellato una serie di forti rialzi sui mercati azionari, quindi bisogna avvicinarsi all'investimento azionario con molta cautela. Noi riteniamo che il 2011 sia un mercato fortemente condizionato dalla selezione, quindi diversificazione e selezione attenta dei titoli. Quindi ci sembra di capire, Giovannini, sentiamo anche da lei questa opinione, è un po' un mercato da una parte poco leggibile e quindi un mercato veramente per esperti in questo caso, cioè massima attenzione a dove si mettono i propri soldi, molto più che in passato, diciamo così. Assolutamente sì, però la parola chiave, a mio parere citata precedentemente dal collega, è diversificazione. Cioè oggi si riscopre magari a livello italiano il mercato azionario, perché l'anno scorso, come lei prima ha citato, il FTSE MIB è stato il peggior mercato perché condizionato dalla forte presenza di finanziari che immediatamente in un mese hanno recuperato tutto quello che avevano lasciato, ma il mercato azionario sta già funzionando da circa 18 mesi, il che cosa ci porta a dire che, come al solito, quello che alla fine paga nel medio termine, intendo per medio termine 2-3 anni, quindi non è che mi spingo come in passato a parlare di 7-10 anni, è avere un portafoglio equilibrato e soprattutto diversificato. Quindi, come dire, in questa fase nemmeno voi operatori ve la sentite di spingervi oltre un certo limite temporale, diciamo così, Alfieri? No, assolutamente bisogna sempre valutare realmente che siamo usciti da una profondissima crisi. Ad esempio in Europa, l'Europa presenta la Germania con degli ottimi numeri di crescita, ma non ci dimentichiamo che ci sono tutti gli altri paesi che stanno cercando di agganciare la crescita tedesca. Questo ovviamente avrà delle conseguenze anche sui tassi di crescita delle aziende europee, quindi bisogna saper scegliere all'interno del listino europeo allargato titoli e aziende che si stanno presentando sul mercato, consolidando i propri risultati sui vari mercati internazionali, mentre altre aziende faranno molta fatica. Allora, ci sono già parecchie domande che ci stanno arrivando via SMS, ma prima di tutto prendiamo una telefonata, che è quella di Marco e ci chiama da Roma. Buongiorno Marco. Buongiorno e complimenti. Allora, la mia domanda, io ho un portafoglio, un parere dall'esperto, che spazia dai mercati emergenti, materie prime e azionariato in senso generale, America, Europa. Mi sembra Marco, più diversificato di così non penso che si possa, insomma. Comunque sì, prego. Qual è? Per quanto riguarda i mercati emergenti, sto cercando di focalizzare l'attenzione sui nuovi mercati emergenti. Quali sono? Un parere dell'esperto, perché ormai India, Cina, Brasile non sono più mercati emergenti, sono mercati da un pezzo emersi. Un parere dall'esperto, grazie. Allora sì, sul ragionamento che siano da mo emersi, come ci dice Marco, su questo non c'è dubbio, ed è vero anche, e se ne è parlato, cioè anche una tendenza macroeconomica abbastanza forte, che ci sono dei paesi, soprattutto intorno alla Cina, che stanno crescendo parecchio, nei quali le imprese cinesi stanno, che per noi è quasi un paradosso, stanno delocalizzando. Allora, su quali paesi punterebbe lei, Giovannini? Allora, è una risposta troppo specifica per dire, perché io potrei parlare di Vietnam, ma anche di Cambogia, che in questo periodo, di Filippine, che stanno sicuramente crescendo. La logica però ritorna a quella detta precedentemente dal dottor Alfieri, cioè qui bisogna selezionare. L'unico modo di selezionare è quello di affidarsi a degli esperti. E quindi rilancio per l'ennesima volta anche in questa sede il fatto di far capire agli investitori che comprare dei fondi comuni magari globali che investano nei paesi emergenti è la soluzione più sicura e anche più certa per sapere di avere alle spalle un team di persone che fa la selezione tutti i giorni. Nel momento in cui ad esempio io in questa sede cito il Vietnam, probabilmente delle persone che lavorano costantemente sui dati macroeconomici provenienti da tutto il mondo stanno già selezionando o valutando che ci possono essere dei paesi più promettenti. Ecco perché io rifuggo dall'idea di dare un titolo oppure di dare un paese geografico, ma dico per favore tornate sui fondi comuni e abbiate comunque fiducia in una logica di diversificazione su team di gestione che fanno questo tipo di attività quotidianamente. Allora, la sua posizione è chiara ed è anche naturale perché lei fa parte dell'industria finanziaria, insomma, evidentemente, Giovannini. Su questo io vorrei, poi può anche rispondere se vuole, chiederei l'opinione di Alfieri e poi vi direi anche a tutti e due, insomma, ci sta anche che qualcuno abbia un livello di educazione finanziaria un pochino più alto e si voglia spingere un pochino oltre dal punto di vista degli investimenti. Naturalmente l'educazione finanziaria bisogna avercela, insomma, se non si ha l'educazione finanziaria è meglio evitare, però insomma detto ciò ci può stare Alfieri, no? No, sì, mi sembra che il portafoglio della persona che ci ha chiamato è molto interessante perché in effetti è ben costruito. Riteniamo che in generale ci siano ormai dei mercati emersi che debbano rappresentare gioco forza un core asset all'interno del proprio portafoglio. Core asset intendo dire una permanenza nel proprio portafoglio. Cito Cina, India, Brasile, la stessa Russia, chiaramente con un'adeguata percentuale. Per rispondere però al quadro attuale sui mercati emergenti, ritengo che il 2010 si sia caratterizzato per un mercato dove era possibile individuare delle aree interessanti dove poter intervenire, quindi regioni, paesi specifici dove poter investire. Il 2011, visto gli alti livelli che queste borse in generale, parlo dei mercati emergenti, hanno raggiunto, concordo col collega nel dire è più consigliato per coprire gli altri mercati utilizzare ovviamente portafogli diversificati e gestiti. Quindi quello che è successo in Egitto, sì, è esattamente l'immagine di quello che è necessario fare. È andata molto di moda nel 2010 l'Africa in generale, ma come abbiamo visto, se qualcuno avesse scommesso specificatamente sull'Egitto, sulla Tunisia per dire, avrebbe avuto delle fortissime perdite. Quindi è necessario avvicinarsi ai mercati emergenti nel 2011 con prodotti diversificati, quindi emergenti globali. Allora, su questo Alfieri, lei sembra dire abbastanza nitidamente i cosiddetti BRIC ormai, che consideravamo mercati emergenti fino a poco fa, ormai sono dei mercati che possiamo considerare al pari, come dire, del mercato europeo o del mercato americano, anche perché comunque sai, quando hai un paese come la Cina che cresce il 10% all'anno, diciamo un certo grado di sicurezza sull'investimento che fai ce l'hai. E su questo vorrei sentire l'opinione di Giovannini, ma tra un attimo, subito dopo il meteo. Le 12:33 minuti, 800-2400-24 per intervenire in diretta, 349-238-6666, tra poco leggeremo anche qualche sms perché arrivano spunti interessanti dal lato delle materie prime, dal lato ancora dei paesi emergenti e poi sulla questione titoli di Stato. Tra l'altro c'è stata questa mattina una nuova asta del Portogallo, perché questo è un tema del quale abbiamo parlato tantissimo, non solamente nelle trasmissioni specificatamente economiche, ma anche nei nostri giornali radio, il tema delle obbligazioni di Stato europee, ne abbiamo parlato tantissimo, poi è un mese che ci se ne occupa un pochino meno, forse perché le notizie sono migliori, basta vedere l'asta di questa mattina dei titoli di Lisbona, interesse medio a sei mesi del 2,98% contro il 3,68% dell'asta del 5 gennaio, quindi un calo di rendimenti abbastanza netto e fa ben sperare. Però eravamo sul tema del come considerare i cosiddetti BRIC, ossia Brasile, Russia, India e Cina, ossia come una sorta quasi di nostro mercato domestico, almeno finanziario, diciamo così. Volevo sentire l'opinione di Giorgio Giovannini, che è country manager per l'Italia di Anderson Global Investors. Giovannini. Sì, mi riallaccio anche a quello che stavamo dicendo prima per le persone che in tutti questi anni hanno comunque sviluppato la cosiddetta cultura finanziaria, cioè la diversificazione 10 anni fa era completamente diversa da quella che oggi ci troviamo ad affrontare, cioè 10 anni fa si parlava di Giappone, di America in prima battuta ed eventualmente un po' di Europa. Oggi diversificazione vuol dire, come si diceva precedentemente, avere nel proprio portafoglio un po' di commodity, avere nel proprio portafoglio i cosiddetti mercati emergenti ormai emersi, che ormai conosciamo tutti, vuol dire avere determinati settori quali la tecnologia, vuol dire ancora continuare ad avere ad esempio America, anche un po' America Latina, che molto spesso noi trascuriamo ma che è un continente in forte crescita, e chiaramente Europa. Ma ritorniamo se volete sul tema classico, cioè quello che si diceva precedentemente: in un momento di grande crisi, di grande confusione, dove è difficile trovare certezze, dove è importante scegliere e comunque fare un'attenta selezione, soltanto diversificando il proprio portafoglio e affidandosi a strumenti quali, torno a ripetere, come i fondi, che a loro volta, al loro interno, obbligatoriamente sono anch'essi diversificati, si può ottenere un portafoglio equilibrato, pronto per tutto quello che può accadere. Attenzione, e prima di lasciare di nuovo la parola a lei, attenzione che stiamo parlando solo di mercati azionari, ma per me un portafoglio diversificato è un portafoglio anche dove ci sono titoli di Stato, i tanto vituperati titoli di Stato. Cioè, attenzione, non stiamo parlando di mettere i propri denari soltanto sul mercato azionario, ma ci vuole un'allocazione equilibrata anche in questo senso. Naturalmente, ed è un messaggio che cerchiamo di lanciare abbastanza spesso anche da questi microfoni. Allora, abbiamo un paio di telefonate, iniziamo da Mauro, che anche lui ci chiama da Roma. Mauro, buongiorno. Sì, buongiorno. Ecco, prego. Grazie. Dunque, volevo intervenire per questo fatto qui appunto della diversificazione. Per quanto riguarda i titoli obbligazionari, i fondi per esempio gli ETF, io ho visto che pur rimanendo fisso il tasso di interesse al 2%, c'è una grossa perdita in conto capitale. Pur rimanendo le cedole ovviamente fisse. E non riesco a capire il perché, insomma, vorrei una spiegazione in merito. Allora, resti un attimo in linea perché giro la domanda a Lorenzo Alfieri, che lo ricordiamo è Managing Director di JP Morgan Asset Management, e lei mi resti in linea perché magari Alfieri ha anche una domanda per lei, insomma, se ha bisogno di ulteriori chiarimenti sulla sua medesima domanda. Prego. No, mi sembra di aver capito che l'ascoltatore chieda come mai un fondo obbligazionario, anche se evidentemente ha una costanza di cedole che vengono staccate dai fondi, dai titoli presenti all'interno del fondo, come mai abbia subisca forti perdite sulla quota del fondo. Se sì, questa è la domanda, la motivazione è abbastanza semplice. Il gestore di un fondo obbligazionario ha un benchmark di riferimento molto chiaro. Il benchmark di riferimento ha una sua duration finanziaria che deve essere mantenuta. Questo vuol dire che inevitabilmente, a prescindere dal fatto che ho all'interno delle obbligazioni che mi staccano cedole, il valore di questi titoli è sempre, supponiamo di avere una duration finanziaria di 5 anni, hanno una scadenza più o meno di 5 anni. Evidentemente, quindi, un titolo a 5 anni, se i tassi iniziano a salire, perdono, nonostante che, come ha giustamente evidenziato l'ascoltatore, i titoli stessi ogni anno staccano cedola, ma se staccano una cedola del 4% su un titolo a 5 anni, basta anche un leggero incremento dei tassi sulla curva a 5 anni perché si possono perdere 8-10 punti in valore capitale. Spero di essere stato chiaro. Sì, mi sembra decisamente di sì. Mauro, è stato chiaro? Tranne appunto il fatto che i tassi di interesse sono rimasti fermi, quindi è basato questo più sulle previsioni dell'aumento che sull'aumento reale. No, non sono rimasti fermi, dice Alfieri. No, purtroppo che sappiamo come il BTP, per dare un titolo di riferimento, sto parlando di un BTP a 10 anni, io non so ovviamente il fondo di quale fondo stiamo parlando, ma parlo di un fondo obbligazionario con una durata che sia tra i 7 e 10 anni, un BTP negli ultimi tempi purtroppo, ahimè, hanno perso molto del loro valore. Allora, abbiamo un'altra telefonata e anche qua da Roma ed è Luigi. Buongiorno Luigi. Sì, buongiorno a voi. Senta, io dicevo alla vostra collaboratrice che credo molto nel mercato italiano perché ritengo che, proprio perché è stato fortemente penalizzato nell'ultimo anno e mezzo rispetto alle altre borse, vedi la borsa tedesca per esempio, le sue potenzialità a fronte di un cambio di guida politica nei prossimi tempi, ritengo che sia un fortemente attraente per molti investitori, forse anche stranieri, se si ripropongono le condizioni per poter reinvestire, proprio perché fino adesso non è stato utilizzato. E inoltre vorrei dire una cosa relativamente ai mercati emergenti, non so se magari il vostro esperto me la può confermare. Ritengo che i mercati emergenti quali Cina e India, che fino adesso qualcuno ha detto insomma sono già emersi, io penso che avendo un bacino di utenza interno ancora tutto da sviluppare visto i numeri della popolazione, siano mercati emergenti che saranno per parecchi anni emergenti, proprio perché la parte interna loro crescono grazie proprio, anche se non esportano, la produzione interna c'è. Per cui ritengo che quei paesi siano molto interessanti da un punto di vista investimento. Forse poi qua subentrano anche altri elementi, insomma lei li ha messi in campo per l'Italia, non vedo perché non dovremmo metterli in campo anche per altri paesi, insomma, perché poi ci sono anche variabili politiche, sociali e di vario tipo che naturalmente influiscono su tutto questo. Io però inizierei dal mercato italiano, cercherei un attimo di depurare la cosa dalle questioni politiche. Andrei più sul tecnico, Giovannini. Sì, allora la mia opinione è che rispetto ad alcuni anni addietro ormai la politica c'entri pochissimo. I mercati ormai si muovono in una logica diversa, l'Italia nell'euro conta molto di più quello che sta accadendo in Europa, i discorsi sulla valuta che ormai noti, piuttosto che l'aspetto politico locale. La risposta è abbastanza semplice: il mercato italiano, comunque il FTSE MIB, è un mercato fortemente condizionato dai finanziari che l'anno scorso hanno pagato pegno a tutte queste voci che io personalmente ho sempre ritenuto non veritiere, di euro a doppia velocità, di disgregazione dell'euro, e chiaramente se tutto ciò avvenisse i finanziari sarebbero i primi i soggetti in qualche modo a risentirne. Adesso che invece si ragiona con un pochino più di calma e soprattutto si sta ritornando a una visione più equilibrata, anche perché l'economia lentamente anche nella zona euro sta migliorando, ecco che immediatamente il mercato italiano si sta riportando, e non si ancora, quindi secondo me c'è ancora spazio di crescita nel breve, si sta riportando in linea con gli altri mercati. Per quanto riguarda invece la seconda parte della domanda che riguardava i mercati emergenti, qui la risposta è chiara, qui dipende sempre da l'orizzonte temporale. Se uno mi dice ma da qui a 10 anni, per forza da qui a 10 anni avere un po' di Cina in India è giusto, è corretto, è un'allocazione corretta di parte del proprio denaro. Il problema è che poi però dovremo risentirci tra 10 anni, invece settimana prossima già siamo magari a discutere perché la Cina ha perso il 4% oppure perché l'India è salita del 3%, e quindi ritorniamo al discorso di inizio trasmissione. Si tende a guardare troppo al breve, ci lei vogliono, dice. Bisogna diversificare. Chiaro, se uno mi dice da qui a 10 anni saranno i mercati che renderanno di più, beh, mi sembra in questo momento anche una risposta banale dire che sì, sicuramente renderanno di più, ma non per questo vuol dire dobbiamo concentrare i propri investimenti, i nostri investimenti su questi mercati unicamente. Sì, allora lei accennava all'euro, alla situazione dell'euro, ma è notizia di un attimo fa che Standard & Poor's ha abbassato il rating dell'Irlanda un'altra volta, a meno, e resta tra l'altro un credit watch negativo. Abbiamo una breve pausa per la viabilità, poi io tornerei, tra gli altri sms che sono arrivati ce n'è uno che riguarda l'oro, e quindi arriverei al tema delle materie prime, che è stato uno dei grandi temi appunto del 2010, e vogliamo cercare di capire se lo sarà anche nel 2011. Abbiamo visto una fiammata recente del petrolio, soprattutto sulla scorta delle notizie arrivate dall'Egitto e forse più in generale a tutta l'area del Maghreb, che dal punto di vista energetico è discretamente importante, per dirla così. Ecco, vorrei toccare questo tema, petrolio e oro, subito dopo la viabilità. Le 12.46 minuti e 15 secondi, ci chiede un ascoltatore via sms al 349-238-6666, oro che fare, comprare, vendere, tenere duro? Lei Alfieri, posto che insomma non voglio dire, le previsioni anche su questo fronte sono piuttosto complesse, lei che cosa dice? Ma ovviamente, come giustamente è stato sottolineato, è molto difficile fare delle previsioni. Non ci dimentichiamo che nel 2010 l'oro è salito su tutta una serie di fattori anche emozionali. Ovviamente il fatto da parte della Fed di aver scelto una politica di easing quantitativo e quindi di non dare il mercato di dollari ha chiaramente costretto molti investitori, anche i grossi investitori istituzionali, a cercare un nuovo punto di riferimento, qualcosa che non fosse svalutabile, ed ecco che quindi c'è stato l'apprezzamento dell'oro. È chiaro che questa fase del 2010 si permea un po' di è un po' più difficile che si possa verificare anche nel 2011, quindi noi riteniamo che l'oro in questo momento sia sicuramente ben prezzato. Ci sono però ovviamente sempre da tenere presente poi dei fattori tecnici occasionali che possono in un certo momento far salire ulteriormente l'oro, ma anche farlo scendere. Quindi la nostra posizione è in questo momento evidentemente di attesa. E aggiungo questo, peraltro nel 2011, come si diceva all'inizio, i margini di incertezza sulla ripresa economica ci sono ancora, quindi comunque c'è qualche possibilità che qualche altra fiammata da quel punto di vista la vediamo, dal lato dell'oro dico naturalmente. Sì, non voglio parlare dell'oro, ma giustamente come è stato evidenziato, se dobbiamo guardare alla ripresa economica, mentre ci sono alcune aree geografiche dove chiaramente la crescita continuerà, prime fra tutte, le abbiamo già citate più volte, i paesi emergenti, ci sono ovviamente dei punti interrogativi sugli Stati Uniti, sulla sostenibilità nei trimestri successivi di questa interessante crescita che ci sarà nel primo trimestre, e tutta da vedere la crescita eventuale dell'Europa, che in questo momento è trainato solo unicamente dalla Germania, ma gli altri paesi è un grosso punto interrogativo, ed è quindi evidente, chiaro, che se nella seconda parte del nostro del 2011 inizieranno presentarsi problemi di crescita, questo potrebbe avere anche ovviamente e nuovamente degli effetti su alcune variabili quali l'oro. Sì, tra l'altro quando parliamo di materie prime ovviamente non parliamo solamente dell'oro, ma parliamo anche, come è naturale, delle materie prime alimentari, che sono un altro elemento che ha fatto la parte del leone nel 2010 sull'onda anche, si è detto, di fenomeni speculativi. è di oggi la notizia, la Commissione europea dice che è necessario intervenire per migliorare la trasparenza e l'affidabilità dei prodotti derivati sulle materie prime. Chiederei un'opinione a lei, Giovannini, più in generale sul tema delle materie prime. Mi sembra che sull'oro abbiamo enucleato abbastanza e penso che tra l'altro la posizione di Alfieri sia abbastanza condivisibile, insomma. Sì, no? Anche noi riteniamo che nel 2011 l'oro non darà le stesse soddisfazioni intese come guadagno, come performance che ha avuto negli ultimi due anni, però ricordiamo sempre che l'oro rimane uno strumento comunque utile e difensivo nel caso l'inflazione dovesse riprendere. Nel tema generale delle materie prime è logico che sono in un trend di rialzo, anche perché se la popolazione continua a crescere le materie prime non sono una risorsa infinita e questo è un problema generale per il mondo più che per le attività finanziarie. Quindi nel medio-lungo termine chiaramente sono in un trend di rialzo. Attenzione che però oramai è chiaro alle autorità centrali che strappi come quelli che abbiamo assistito negli ultimi anni o recentemente ad esempio sul grano, che hanno anche poi creato questa situazione di instabilità nel Medio Oriente. Quindi questi mercati vanno sempre più regolamentati e in qualche modo controllati, perché altrimenti la speculazione finanziaria eccede e poi questo crea degli squilibri sociali. E questo è qualcosa, sarà un tema dominante. Lei prima ha appena detto che appunto la Commissione europea ha emesso questo comunicato, ma in realtà è un tema di cui già si discute. Bisogna riportare il mercato delle materie prime all'interno di regolamentazioni o di regole comunque precise che evitino questi strappi che poi portano conseguenze quotidiane. Sì, visto il tempo medio che ci mette a Bruxelles a prendere queste decisioni, insomma, non conterei sul 2011. Ecco. Allora, come al solito la politica arriva in questi casi sempre in maniera un pochino fumosa, ritardata, ma questo è un argomento che secondo me le autorità centrali finanziarie hanno ben chiaro già da alcuni anni. Certo, non è facile intervenire in un mondo globalizzato e dove soprattutto la finanza di carta molto spesso è stata lasciata troppo libera. In fondo la crisi nasce anche da questa finanziarizzazione eccessiva dell'economia. Però non ci si è arrivati in un anno in una situazione di crisi e non si riesce neanche in pochi mesi a riportare il tutto sotto controllo. Intanto è importante averne preso coscienza. Allora, io ritornerei adesso, siamo quasi in chiusura, mancano pochi minuti, ritornerei ad Alfieri e ritornerei anche a Bomba, all'argomento iniziale, ossia l'azionario, per toccare il tema tassi di interesse. Insomma, abbiamo visto qualche tendenza dovuta anche a quel che ci dicevamo prima, insomma l'andamento delle materie prime, le fiammate del petrolio e così via. Abbiamo visto qualche micro fiammata inflazionistica sparsa tra Europa, Stati Uniti e via dicendo. Potentissime le fiammate inflazionistiche nei cosiddetti paesi ex emergenti. Abbiamo visto l'India, se non sbaglio, il mese scorso è stato più 10, più 12%, qualcosa di questo genere. Allora, il rischio di rialzo dei tassi quest'anno e quindi naturalmente impatto nuovamente sul mercato azionario, sulle operazioni di fusione, acquisizione, eccetera, eccetera. Lei Alfieri come la vede? Allora, innanzitutto bisogna dire che la situazione è abbastanza variegata. Abbiamo da una parte alcuni paesi che dovranno prendere in termini abbastanza perentori delle misure di rialzo dei tassi e soprattutto, appunto, come è stato citato ora, alcuni paesi emergenti. Direi che aumentano via via, sempre più paesi emergenti dovranno adottare delle politiche monetarie adeguate. Quindi è per questo che noi ci aspettiamo sui mercati emergenti maggiore volatilità, incertezza, attesa di rialzo dei tassi, evidentemente volatilità maggiore su quei mercati. Poi abbiamo dall'altra parte l'Europa, dove, come ho citato più volte, solo la Germania sta crescendo. Sì, certo, se tieni insieme un'inflazione al 10%, una crescita al 15%, tutto sommato certo, ci puoi stare. Però è evidente che veniamo da listini azionari che sono saliti moltissimo. Sto parlando ovviamente di Cina, ma soprattutto di India, Brasile e altri ancora, quindi volatilità in aumento sui mercati azionari emergenti. L'Europa, come dicevo, presenta una situazione abbastanza variegata, solo la Germania sta crescendo e qua si pone il punto interrogativo: la BCE cosa farà? Come sapete, i mercati in parte stanno scontando un rialzo dei tassi probabile, più probabile verso la fine del 2011 o all'inizio del 2012, ma il grosso punto interrogativo è che la Germania è l'unica economia che sta crescendo. I paesi cosiddetti periferici potrebbero fortemente essere danneggiati e questo potrebbe avere un impatto sui mercati azionari europei. Poi naturalmente, poi la faccio concludere sugli Stati Uniti. Naturalmente, se si considera poi che la Spagna, paese con un 20% di disoccupazione dato della settimana scorsa, ha messo giù un 3% di inflazione nel mese scorso, insomma, quindi forse la BCE potrebbe decidere di muoversi. 30 secondi sulla Fed. Infatti, si dicevo sugli Stati Uniti, invece noi ci aspettiamo che assolutamente per il 2011 la politica monetaria rimarrà inalterata ed è per questo motivo che per esempio per noi al primo posto come mercato azionario troviamo gli Stati Uniti. 10 secondi, Giovannini, sugli Stati Uniti e la Fed. Anch'io ritengo che per il momento i tassi non saliranno, però vorrei ricordare ai radioascoltatori che nel momento in cui dovessero salire o negli Stati Uniti o in Europa, forse veramente questa è la prima luce che si vede alla fine del tunnel. E anche oggi, prima di chiudere, ci fermiamo qualche istante per lasciare spazio alla nostra rubrica. INPS, per saperne di più. Fino alla fine di febbraio vi proponiamo, in collaborazione con l'INPS, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, delle pillole per chiarire e spiegare le parole della previdenza. Il concetto di oggi è avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. L'articolo 30 del decreto legge 78 del 2010, come modificato in sede di conversione dalla legge 122 del 2010, prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2011, l'INPS provveda al recupero dei crediti contributivi di propria competenza attraverso la notifica al contribuente di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. L'avviso di addebito viene utilizzato sia per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati alla scadenza mensile o periodica, avviso di addebito da omissione contributiva, sia per le somme accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche di altri enti, avviso di addebito da accertamento. È sempre prevista la possibilità di richiedere il pagamento rateale dell'importo dovuto qualora ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Ed è tutto anche per questa puntata di Salvadanaio. Ringrazio Lorenzo Alfieri, Managing Director di JP Morgan Asset Management, per essere stato con noi. Buona giornata. Buona giornata, grazie a voi. E buona giornata anche a Giorgio Giovannini, Country Manager per l'Italia di Henderson Global Investors. Grazie anche voi, buona giornata. Grazie come sempre a Gaia Romani in redazione, grazie a Filippo Aureggi in regia e grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto, per gli SMS e le telefonate. Da Simone Spezia, una buona giornata. We'll be right back.